Che ci porta sui tetti come gatti a fare l'amore per mille più ore senza veli, senza pudore. Oh. you not to touch me. Shoot me. I will. Well, quit talking about it and do it, by God. I will.